Il punto di Stefano Folli. Alla fine l'atteggiamento dell'Europa verso la manovra economica italiana sarà dettato dalla politica più che dai numeri. Stando alle regole in senso stretto ci sarebbe motivo di reprimende e forse bocciature senza appello, ma se interviene l'opportunità politica si può immaginare un richiamo più soft al quale il governo Renzi è già pronto a rispondere. Del resto la Francia ha più problemi di noi in questo momento, anche se è giusto ricordarlo, Parigi non ha, nemmeno alla lontana, il debito pubblico italiano e quindi è assai più credibile, e non solo per l'antico rapporto privilegiato con la Germania che pure conta. Insomma, il sentiero è stretto, ma si può tentare la sorte. Renzi punta molto sulla nuova commissione presieduta da Juncker, al punto da salutarlo con enfasi come l'autore della grande svolta europea che sarebbe merito dell'Italia. Forse è meglio non esagerare. Aspettiamo prima almeno che saltino fuori sul serio i 300 miliardi promessi dal successore di Barroso, e senza dimenticare che dietro di lui c'è sempre la Merkel, nel bene e nel male.